Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Andiamo subito a sentire i titoli del nostro sommario e poi vi racconto delle cose. Dieta e attività fisica. È questa la ricetta giusta per rimettersi in forma? O c'è dell'altro? Piedi coccolati, piedi fortunati. Ansia da separazione. La parola alla ricerca. Eccoci qui, è cominciata la corsa ai saldi ed è cominciata anche la corsa per rimettersi in forma. Tutti gli anni la stessa cosa, arrivano le feste, noi ci lasciamo andare, e per fortuna, e alla fine ci mettono sulla bilancia, fanno i conti, arrivano i dati. Si dice che 17 milioni di italiani abbiano accumulato tra i 2 e i 4 chili e naturalmente arrivano anche le raccomandazioni degli esperti. Prima ci fanno sentire grassi e poi ci dicono ma no, non si danni, non faccia diete troppo drastiche, insomma cerchi di assumere di fare una dieta equilibrata, di muoversi un po'. Allora noi oggi vogliamo parlare di tutto questo, ci mettiamo sulla bilancia, con un sorriso, vediamo come ritornare in forma e soprattutto come mantenerci in forma, e direi che abbastanza in forma, qua in studio con me veramente c'è una folla, ma vi saluto subito il dottor Confalonieri che è tornato a trovarci, eccolo! Buongiorno, ben ritrovati tutti! Lei? Tra i 2 e i 4 o di più? Oh, penso di essere sui 2, anche se non mi sono fatto mancare nulla, perché la famosa filosofia del vizio terapeutico che consente di mantenere un equilibrio psicologico fondamentale per il proprio benessere, la continuo a seguire. Lei quindi, insomma, in sostanza ci dice che è un godereccio ed è così. Sì. Bene, ecco, allora 824-0024, questo è il nostro numero per intervenire in diretta. Oggi andiamo, cioè ci guardiamo proprio dentro casa, e allora io ho chiamato degli amici della redazione che voi conoscete molto bene e per me sono degli amici, e quindi faccio i conti anche un po' con loro. Sorridente, soddisfatta, abbiamo Deborah Rosciani. Deborah. Sì, soddisfatta, l'unica che è andata in controtendenza con i chili di Natale. Perché? Perché ho ben pensato di farmi venire il virus. Il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, proprio ho decretato insomma questa data come inizio della dieta, e quindi non ho mangiato mai. Credo di essere tornata dalle vacanze con 2 chili. Asciutta. Non dico 2 chili in meno perché questo miracolo non è avvenuto, però non li ho neanche presi. Marta Cagnola, com'è andata? Beh, io e Deborah ci siamo confrontate in virus quando siamo tornate. Ho detto, ma perché mi è venuta solo la febbre? E quindi non ho perso neanche un etto. Niente, è andata che sono stata abbastanza brava, ma non così brava. Ma io non mi peso mai. Io controllo i jeans. Non devono, se tirano bisogna diminuire qualcosa. Invece vediamo se i jeans tirano o non tirano, non guardo, perché qua vicino abbiamo Stefano Gallarini. Buongiorno, ciao, grazie. No, a parte appunto la gola. Ma siete tutti malati, ma sentite essere benessere. No, faceva freddo su. A Capodanno, eravamo tutti in giro. Detto questo, io ho la bilancia quella che misura la massa grassa dalla massa magra. Per cui non deve alzarsi quella grassa, quella magra se si alza. Lui fa sai niente, che ha capito? Tutto, eh? Alla ma non so se funziona poi. Lui è veramente. Funziona con Falonieri, funziona a metà? Funziona a metà, nel senso che è un indicatore che fa non proprio precisissimo, però introduce un concetto fondamentale, che è quello di non ragionare in termini di peso, perché il peso è un dato assolutamente sporco, un dato che ci porta fuori binari, ma ragionare in termini di diminuzione e aumento della percentuale di tessuto grasso, che è l'aspetto fondamentale. E direi, non a caso, anche le due amiche che hanno preceduto Stefano avevano già centrato il problema. Non a caso sono donne. Non a caso sono donne, sottoscrivo. Adesso faccio la furba perché ci siete anche voi due, ma poi quando rimaniamo sottoscrivo, solo io, dovremmo uscire prima o poi. Sottoscrivo questa cosa, nel senso che Marta parlava dei jeans come prova fondamentale rispetto all'andamento piuttosto che la bilancia, perché evidentemente il jeans è molto più sensibile all'eventuale incremento della percentuale di grasso che non a variazione del tessuto muscolare. Deborah invece ha avuto un virus e ha detto tutto sommato mi auguro di non averlo perso peso, perché a quel punto no avrei voluto perderlo. perché ma probabilmente si vuole perdere qualche chilo, però diciamo che non è servito. Probabilmente il rischio era quello, e con un virus è una vita comunque abbastanza attiva come quella che la caratterizza, di perdere tessuto muscolare, quindi di perdere massa magra, quindi perdere tono, perdere forma fisica e non perdere grasso, che è quello che tutto sommato potrebbe farci male. Quindi direi che l'approccio è corretto, penso però più che più tecnologico quello di Stefano, più terra terra ma assolutamente empirico, efficacissimo quello di Marta. Bisogna dire, non bisogna dire, sai, come quando il jeans è un po' stretto, uno dice ma è stato in lavatrice, si è stretto troppo, no? È la ciccia che tra l'altro per questi famosi chili, quando ce ne, insomma, ce ne accorgiamo, comunque non si può stare a dieta, specie in questo momento. Diete drastiche no, assolutamente. Deborah, il virus se l'è già preso, ma gli esperti raccomandano appunto di non esagerare, proprio per non debilitare il nostro organismo, corretto? Sì, direi che quest'anno finalmente abbiamo ascoltato una cosa che noi ci raccontiamo da tanto tempo, che è quella di evitare, nonostante siamo una coppia, ecco, è quella di evitare un approccio dietologico stretto, perché non c'è niente di più pericoloso e più sbagliato di una dieta fortemente ipocalorica e portata avanti per un periodo di tempo limitato, perché il risultato di questo tipo di diete è quello di aumentare, di diminuire il consumo del nostro organismo, di aumentare la capacità del nostro organismo di assorbire alimenti, per cui nel momento in cui interrompiamo la dieta noi riprendiamo molto rapidamente i chili che faticosamente abbiamo perso. Quindi la cosa migliore in questo momento è razionalizzare le abitudini alimentari con molta attenzione, rispettando comunque i nostri vizi, i nostri obblighi e ciò che è legato alla nostra vita quotidiana. Si può anche finire un po' il panettone che abbiamo a casa, il torrone, per perdere eventualmente i chili in eccesso con molta gradualità e con molta lentezza, perché allora sarà una perdita stabile. Allora, un giro di tavola per capire come pensate di mantenervi in forma, perché devo dire la redazione in ottima forma. Sono io qua, sento anche il braccio di Stefano Gallarini che è scolpito. Stefano, meno male che non siamo in televisione, perché questa è la lui adesso me la voglio sentire tutta. Guarda, iniziamo allora da Deborah. Cosa fa Deborah? Io sono un'amantissima della palestra, quindi una volta finito il lavoro qua scappo via e insomma almeno 3 sere a settimana dedico un'ora di tempo all'attività ginnica, faccio delle cose diverse, mi piace moltissimo l'attività aerobica, quindi sono un amante dello step e poi di un'altra disciplina latinoamericana che stanno introducendo adesso in Italia, si chiama la Zumba, molto divertente. Com'è? È una cosa divertente, è un'ora di, non dico di ballo latinoamericano, ma di attività aerobica con quella musica, per cui in realtà è un'ora molto divertente in cui si suda tantissimo e quella è una cosa che a me serve molto, ma serve in primo luogo per il cervello e poi ovviamente c'è un certo beneficio anche per il fisico. Mi piace moltissimo sudare, questo è il modo in cui io mi tengo in forma, anche perché dopo 8, 9, 10 ore di redazione d'ufficio, se non vado un po' in palestra non so che cosa posso fare per smaltire lo stress che comunque di cui sì, comunque il nostro lavoro ci carica, sì. Marta, ci ha dato un colpo basso. Dimmi che anche tu vai 3 volte alla settimana. Anch'io. Ragazzi, vi saluto, vado a casa, venite. Approccio diverso, perché io sono una solitaria. Cuffiette, rinchiusa nel mio mondo, corro sul tapirulan, faccio tutte le attività possibili, però assolutamente chiusa in me stessa. E soprattutto non step, non cose che mi richiedano concentrazione. Io devo stare proprio da sola con i miei pensieri. Solitaria. E Stefano? Io non amo il luogo palestra, proprio il luogo, non mi piace quello. E ho usato i saldi invece. I saldi sono ottimi perché ti fanno camminare un sacco. Avrò fatto veramente 50 km a piedi girando e ho usato quello. Credo che sia la cosa più divertente in fondo, perché vai a cercare, tanto non trovi lo stesso, ma questo ti porta da negozio in negozio a guardare e ti fa fare un sacco di chilometri. Ha funzionato. Questo ha funzionato. C'è il prone che è guarda. Vedi, corsa ai saldi, corsa per rimettersi in forma. Dottor Confalonieri, nell'attesa delle telefonate dei nostri ascoltatori, ve lo ricordo, 824-0024, la domanda di oggi. Oggi è come pensate di tornare o mantenervi in forma, più dieta, più moto, che tipo di moto, che voto diamo alla nostra redazione? Beh, diamo innanzitutto, qui non rispetto alla cavalleria, subito un 9 a Stefano, perché avevamo lanciato l'idea dello shopping in forma di fitness, proprio per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori più pigri o meno amanti della palestra, utilizzare. Noi abbiamo parlato anche di un giro per riscoprire le parti più belle della città e non soltanto i negozi, quindi per esempio a Milano i cortili, i palazzi o quant'altro, però anche il negozio in tempo di saldi è perfetto, perché è un modo di camminare, sappiamo che camminare è uno dei sistemi migliori per perdere peso, quindi sicuramente promosso. Promosse tutto sommato anche Marta e Deborah, nel senso che hanno comunque interpretato la palestra in funzione delle proprie esigenze individuali, e questo direi che è fondamentale, nel senso che la palestra può piacere o non piacere, ma l'importante è che ciascuno prenda dalla palestra quello che più si adatta al proprio carattere. Quindi ho una gestione assolutamente individuale dello spazio palestra, e quindi l'esercizio fisico come momento per rimanere con se stessi, o la palestra come sudore, come condivisione del divertimento anche attraverso la musica. Sono scelte entrambe perfette, direi che a questo punto hanno mangiato poco, hanno fatto esercizio fisico. Mamma mia. Speriamo che i nostri ascoltatori non si trovino in difficoltà, ma anzi. Non ci manca che andare a sfilare, Marta. Come esatto. Sfilato, cioè, tutto devo sommato. Dire che lavorare alla radio aiuta, non ci vede nessuno. Sì. Tutto sommato siano solidali con me, che invece sono stato un mezzo disastro rispetto a loro, e quindi ci raccontino, chiamandoci o scrivendoci tramite SMS, dove hanno sbagliato, se hanno sbagliato, o comunque se sono aumentati di peso, si sentono poco in forma rispetto all'inizio del nuovo anno, e quindi come pensano di affrontare il nuovo anno, quali buoni propositi si sono dati, e magari anche se la stessa esperienza l'hanno fatta gli anni scorsi e con quali risultati, perché allora potremmo partire dall'esperienza dei nostri ascoltatori per aiutare tutti quest'anno a partire con il piede giusto. Posso dire una cosa? Ma tu, Nicoletta, un chiletto lo hai messo addosso per cortesia, per solidarietà? Forse sì, perché però non se voglio... ce n'è una che ha bisogno a questo tavolo, ecco, è la conduttrice. No, forse mezzo chiletto. Sì. E penso male. Adesso mi darò da fare, adesso quest'anno mi iscrivo, farò anch'io qualche cosa, perché mi avete fatto venire voglia, altro che solo camminate con il mio cane, adesso vedrai, diventerò scolpita come voi. Allora, intanto grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie e... Io corro a fare la borsa così perdo mezzo chilo. Dai. Ciao Stefano, Marta, Deborah, grazie per essere stati con noi. E noi invece continuiamo, aspettiamo le vostre chiamate, 824 0024. Chiamateci anche se siete in forma per raccontarci come avete fatto. Una mela al giorno. Camminano, corrono, saltano, i nostri piedi sono fondamentali, li trascuriamo spesso perché sono lì laggiù in fondo, eppure sono così importanti per il nostro benessere, per la nostra postura. Oggi abbiamo pensato di dedicare a loro uno spazio di benessere e abbiamo invitato a tornare a trovarci il professor Luca Vagnina, presidente della Società Italiana di Podologia. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Senta professore, giochi di parole a parte, mettiamo i nostri piedi nelle sue mani, partiamo dal pediluvio, che soprattutto in questi tempi, con adesso finalmente a Milano è tornato il sole, ma giornate così fredde, i piedi un po' bagnati, si arrivava a casa con veramente i piedi gelati, allora pensavamo di metterli un po' a bagno, ma di regalare a loro una pausa un pochino più stimolante, rigenerante. Allora, direi che bisogna, grazie alla trasmissione come la sua, possiamo aiutare gli ascoltatori a cambiare un po' anche la mentalità, nel senso di vedere i piedi dal punto di vista del benessere e della bellezza fuori da ogni dubbio, perché la vita è bellezza e benessere, ma soprattutto imparare a capire che dal piede dipende la salute di tutto certo. Il corpo, per cui la prevenzione, oggi il piede è diventato il centro del benessere, della postura, del corpo, di molte patologie, quindi trattarlo bene non deve essere legato né a una stagione né a un episodio così temporaneo, ma a una continuità di attenzioni, perché è un organo che deve essere al centro della assolutamente, attenzione. Assolutamente. Al quale si è creato anche uno specialista che è il podologo, che è in grado di aiutarci nella prevenzione e nella sua ottimizzazione. Allora, mettiamo questi piedi, insomma, piedi piccoli, grandi, fette a bagno? Ecco, allora, il pediluvio è stata una storica tradizione nel campo del piede.

Infatti teoricamente la cosa migliore è non porsi un limite e iniziare con un impegno che sia assolutamente sostenibile e facile da gestire, ecco, proprio perché questo ci consente di non darci un termine. Quindi se sappiamo di avere a disposizione parecchie giornate, parecchi spazi, parecchie ore, utilizzarne soltanto una parte, un terzo e non di più, in modo da dare continuità a questi nostri progetti. Andiamo a Roma, ci aspetta Patrizia. Buongiorno Patrizia. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Tutto bene? Sì, bene, grazie. Bene. Io volevo fare una domanda al medico. Sì. E sapere qual è la dieta adatta per eliminare la massa grassa e non fare errori per eliminare poi quella magra. Invece. Certo. Io ho 59 anni, tutto sommato sono abbastanza snella, però un chiletto o due... se lo perdessi non sarebbe male. Un chiletto o due Patrizia lo butterebbe via. Sì. Grazie Patrizia. Allora, la domanda di Patrizia è assolutamente pertinente. Vogliamo eliminare la massa grassa. Sì, non è semplicissima. Esistesse una ricetta facile... Almeno avrebbe, evitare gli errori. Avrebbe probabilmente una grandissima diffusione. Diciamo due cose fondamentali. La prima... Se noi riduciamo l'apporto calorico con una dieta equilibrata, comunque la prima cosa che andiamo a eliminare sono i grassi in eccesso. Quindi se ci sono dei grassi in eccesso, sicuramente eliminiamo quelli e non eliminiamo la massa muscolare. Poi c'è da stabilire se sulla totalità del nostro corpo la percentuale di tessuto grasso è in eccesso, oppure se il problema è un problema di distribuzione del grasso. Come facciamo a capirlo? Questo lo capiamo facendo una valutazione di tipo antropometrico, quindi con la misurazione delle pliche di grasso, riusciamo a stabilire la percentuale totale di grasso e vedere se c'è un eccesso, perché a volte obiettivamente la persona non è in sovrappeso dal punto di vista del grasso, ma ha una distribuzione che risponde a leggi di tipo genetico, per cui il grasso tende a accumularsi in alcune zone. Sì, ma tutto per noi, sommato, ad esempio, questo va, i fianchi, ci i fianchi, sentiamo i glutei, l'interno cosce, ma in realtà... però va tutto sommato accettato. Nel momento in cui c'è un eccesso, ecco, per non perdere quel minimo o comunque la massa muscolare a cui teniamo, sarebbe utile una dieta ipocalorica con una percentuale di proteine elevata. Quindi cercare di fare una dieta in cui l'apporto proteico sia fra il 20 e il 25%. Faccia un esempio. Quindi dissociare l'introduzione di alimenti, privilegiare carboidrati e proteine vegetali, quindi pasta, riso più verdure a mezzogiorno, e privilegiare proteine animali la sera, prevalentemente da carni bianche. Quindi pollo, tacchino, coniglio, pesce, anche 3-4 volte a settimana, che sono alimenti che garantiscono un elevato apporto proteico con un apporto di calorie non troppo elevato. Quindi questo è il consiglio che posso dare alla nostra ascoltatrice. Allora, noi siamo tornati insieme. Intanto che voi pensate se e come tornare in forma, potete sempre chiamarci all'824-0024, qua in studio con me il dottor Franco Confalanieri. Vi vorrei parlare di una ricerca che a me sembra particolarmente interessante, perché va ad analizzare un problema emotivo che molti bambini hanno e che è normale provare, che è l'ansia di separazione da mamma e papà. Ne sanno sicuramente qualcosa le mamme che per la prima volta portano all'asilo i loro bambini. Bene, i ricercatori del San Raffaele si sono messi a studiare questo disagio, tra virgolette, in più di 700 gemelli, sono riusciti a individuare degli aspetti molto importanti che credo valga la pena conoscere. Quindi sono andata alla fonte, ho chiesto al direttore dello studio di raccontarceli. In linea con noi abbiamo il professor Marco Battaglia, professore di psicopatologia dello sviluppo all'Università Vita Salute del San Raffaele. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei. Professore, ci spiega che cosa avete scoperto? Fondamentalmente in gemelli della popolazione generale norvegese abbiamo condotto uno studio che mostra in maniera abbastanza robusta che l'ansia da separazione, cioè un eccesso di ansietà in circostanze fisiologiche di separazione in età infantile e adolescenziale, condivide gli stessi meccanismi fisiopatologici con una condizione invece dell'età adulta che è il disturbo attacchi di panico. Nonostante le due manifestazioni siano molto diverse, c'è un motivo piuttosto robusto di pensare che bambini che eccedono in queste manifestazioni siano dei candidati probabili a manifestazioni più gravi in età adulta. Professor Battaglia, ma quando l'ansia di separazione diventa eccessiva? È corretto quello che lei dice, cioè che l'ansia da separazione fino a una certa età e entro una determinata entità è del tutto fisiologica. Un bambino però che raggiunta l'età diciamo del secondo ciclo scolare, per cui dagli 8-9 anni in su, continua a manifestare un'estrema reticenza, per esempio, che so, a dormire a casa dei nonni, un'estrema apprensione se il papà o la mamma ritardano magari una mezz'oretta a rientrare dal lavoro, una estrema apprensione per esempio a fronte del timore irrealistico di essere rapiti o maltrattati dai ladri. Ecco, questo è troppo, dice lei. Sono dei campanelli d'allarme. Di possibili campanelli d'allarme. Naturalmente questa è una fonte di disagio di entità clinica già nell'infanzia, in altri termini non necessariamente bisogna aspettare l'età adulta per dire che si tratta di un disturbo. Di fatto questo a tutti gli effetti è già un disturbo di età infantile, per i quali in un certo numero di casi è opportuno prendere qualche misura di tipo terapeutico. Professore, nella vostra ricerca avete analizzato anche l'impatto di separazioni e lutto nell'equilibrio, nel benessere psicologico del bambino. Un po' controintuitivamente quello che abbiamo rilevato è che un bambino che ha un timore irrealistico di separazione dai genitori è diverso da un bambino che ha esperito la reale separazione, addirittura il lutto dai genitori. Sono proprio due itinerari apparentemente separati. Le nostre stime mostrano che attraverso due vie, potremmo dire in buona misura alternative, si può arrivare effettivamente a un aumento del rischio. Questo significa che effettivamente, numeri alla mano, ci sono oggi motivi sufficientemente robusti per dire che bambini che esperiscono la morte del papà o della mamma, la separazione o il divorzio, vedono mediamente un incremento reale del rischio di ammalare, di ansia o depressione di lì a pochi anni o anche nella vita adulta. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci anticipato i risultati di questa ricerca. Le auguro un buon lavoro e una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Eccoci di nuovo insieme, stiamo cercando di riprenderci un po' la nostra forma fisica e perdere quei 2-4 kg che abbiamo magari accumulato nel corso delle feste, però è molto divertente un messaggio che ci ha scritto un ascoltatore a proposito di vizietti, no? Di trasgressioni che ci siamo concesse. Ho mangiato un torrone al cioccolato intero a Natale, le endorfine prodotte superano di gran lunga il chilo acquistato. Questa mi piace molto. E in linea con quel discorso sul vizio terapeutico che si faceva inizio trasmissione, se riusciamo a gestirlo in piccole dosi è magnifico, porta benessere. È ovvio che anche qui c'è un problema di quantità, come per tutte le cose che non fanno benissimo, vanno prese in dose moderate. 824 0024, andiamo ad Ancona, c'è Daniele, poi voglio leggerle anche alcuni sms, proprio le divido, quelli un po' che si concentrano sulla dieta e quali invece si concentrano sull'attività. Daniele, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, sono la provincia di Ancona, ho 47 anni e volevo fare una domanda al professore in merito all'attività fisica. E... Daniele, lei è un po' ingrassato oppure il jeans le cade a pennello? Allora, stia a sentire, io sono alto 1,80 m e peso 80 kg, quindi più o meno dovrei essere in forma. Almeno il dottor Confallonieri ha fatto un gesto come per dire perfetto, un fustaccione. Bene, quindi lei è in forma, ma allora? Però ho qualche problemino di schiena, qualche protusione che mi hanno diagnosticato. Quindi correre non è molto indicato, per quello che io sappia. Sì. Quale attività posso fare per tenermi in forma, insomma? Perché insomma già alto 1,80, cioè dobbiamo mantenerlo perfetto. Dottor Confallonieri, cosa gli facciamo fare a Daniele? Beh, diciamo che le protrusioni discali, che altro non sono che ernie in fase iniziale, cioè non c'è ancora un'ernia definita, ma una situazione che predispone all'ernia, non è che escludano la possibilità di correre, quindi un minimo di corsa, magari fatta non troppo spesso, tutto sommato la possiamo concedere al nostro ascoltatore. L'importante con le scarpe ad hoc. Scarpe giuste, terreno giusto, programma di rafforzamento e di riequilibrio muscolare ad hoc, come abbiamo detto più volte. Certamente altre attività aerobiche, come il nuoto e la bicicletta, in questo caso soprattutto più che la voga e quindi il remo, sono indicate. Quindi l'idea è quella di fare un programma di cross training integrando queste attività con una corsa che a questo punto diventa occasionale o comunque non più frequente di una volta a settimana. Sto cercando di non mangiare più i cioccolatini che mi porto dietro da Natale e dalla Befana. È troppo poco per ritornare in forma, ci scrive Carla. Beh, in assoluto è già un approccio importante. Ma io direi piuttosto che non mangiarli, regolarne l'assunzione. Quindi, uno al perché giorno ci fanno bene, il medico di torno. Bravissima, li mettiamo in frigo in modo che restino buoni, ce ne concediamo uno al giorno, così non sforiamo mai, sì, perché ci siamo tenuti troppo indietro. Siamo gratificati e questo ci porterà a quelle 150 calorie che non modificano radicalmente il nostro equilibrio. Io cerco di eliminare i chili di troppo presi durante evidentemente le vacanze bevendo tanta acqua. Faccio bene, ci scrive Laura da Pesaro. Diciamo che non fa male ad eliminare a bere tanta acqua, nel senso che tanta acqua serve comunque a mantenere elevata la percentuale di eliminazione di una serie di sostanze, di scorie che possono esserci nell'organismo attraverso l'urina, però è assolutamente inefficace rispetto a una perdita di chili, cioè certo, il fatto di assumere tanta acqua non è una buona scorciatoia, non comporta la perdita di peso assolutamente. Rispondiamo anche a Marco da Milano che ci scrive: mangio tutto in bianco, può essere la strada giusta? Una mortificazione, Marco, tutto in bianco. Dottor Confalonieri, che non è la strada giusta per perdere peso, è la strada giusta per non sovraccaricare l'apparato digerente, soprattutto se si è reduci da uno di quei virus intestinali, sì, bisogna di cui poi parlavano in bianco, poi che grasso uno usa, esatto, perché i nostri amici prima, però non è che mangiare in bianco significa assumere una quantità di calorie minori, innanzitutto bisogna vedere la quantità del cibo in bianco che uno prende, perché comunque come il riso, lo condisce, bravissimo, ecco, perché il riso, la pasta in bianco, comunque se sono in quantità elevate l'apporto calorico è elevato, in più se l'olio piuttosto che il burro che aggiungiamo al mangiare in bianco in quantità elevata, l'apporto calorico diventa ancora maggiore. Quindi è una buona strada rispetto a un periodo post-virus, ma non rispetto a una perdita di peso. 824-0024, andiamo a Udine da Serena, poi abbiamo Claudia da Verona, Alessandro da Milano. Serena, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Io avevo un piccolo problema e chiedevo aiuto a qualche esperta, nel senso che dopo una vita di fumare ho smesso l'anno scorso. Brava. Sono stata come risoluzione, ogni volta che voglio una sigaretta andavo a camminare. Però dopo 5 mesi per altre questioni ho ripreso a fumare e il problema è che avevo messo su 6 chili, sì, 3 ne avevo persi camminando e facendo la cicletta quasi ogni giorno, però c'erano sempre quei 3-4 in più. Adesso li ho ripersi perché fumo, so che stavo molto meglio quando non fumavo, però sono un pochino ossessionata al fatto che non mi entrava più niente, ovviamente sì, rinnovare. Molti, Serena, ricominciano a fumare perché proprio sono i chili che accumulano con la cessazione del fumo, diventano pesanti. Innanzitutto, Serena, voglio dirle che se si vuole farsi dare una mano, per tutti gli ascoltatori di Radio 24 c'è a disposizione il nostro forum dove ci sono degli scambi tra persone che sono riuscite, persone che cercano, che sono fallite, con un moderatore che è il dottor Boffi dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che è direttore di un centro antifumo. Se lei volesse anche raccontare la sua storia, noi siamo lì, ma il dottor Confalonieri sicuramente può darle un consiglio. Sì, quello che mi sento di dire è che aveva intrapreso la strada migliore, nel senso che è molto meglio avere 3 chili di più e non fumare che non fumare perdendo questi 3 chili, al di là del fatto che uno poi stia bene o meno con se stessi, che è sicuramente un aspetto importante, ma in questo caso dal punto di vista della salute non determinante. Quindi la mia idea sarebbe: riprenda la strada che aveva intrapreso. Oltretutto aveva abbinato l'interruzione del fumo con la pratica della cicletta e del cammino, questo aveva comportato una riduzione dell'aumento di peso, perché sicuramente c'è stato un aumentato apporto calorico, però i chili in più alla fine erano soltanto 3, e in termini di salute e di prospettiva di vita sono molto meno pericolosi e dannosi 3 chili di peso che non il fumo quotidiano. Quindi la mia idea è: provi a piacersi con qualche chilo in più ma senza il fumo, perché per la sua salute è sicuramente meglio. Claudia da Verona, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Io volevo chiedere al dottor Confalonieri, io ho 4,5 kg da smaltire, ho un metabolismo lentissimo e se io mangiassi carboidrati al mattino e proteine la sera, assimilo quei carboidrati e non riesco a buttarli giù. Cosa posso fare? Allora Claudia, diamo il tempo al dottor Confalonieri per pensare a una risposta, uno schema alimentare ideale proprio per Claudia e per le persone che un po' si ritrovano nella situazione di Claudia. Questo metabolismo lento è una frase che si sente ripetere spesso. Dottor Confalonieri, metabolismo lento, noi diciamo così, voi medici vi irrigidite di fronte a questa nostra... Sì, nel senso che non esiste... Affermazione, non mi viene la parola. Di fatto questo problema del metabolismo lento. Beh, diciamo, però, ci sono persone che mangiano poco e non ingrassano e non dimagriscono, certo, neanche di un etto. Persone, certo, che mangiano tantissimo e non si muovono e sono magri come degli stecchini. Certo, c'è due punti da chiarire fondamentali. Il primo, che ciascuno di noi ha un suo punto di equilibrio calorico. Cioè ciascuno di noi ha una necessità di una certa quantità di calorie per mantenere la percentuale di tessuto grasso e in seconda battuta il peso corporeo costante, e questo è legato al nostro DNA. Secondo punto è che nel momento in cui noi ci sottoponiamo a diete brevi e drastiche abbassiamo questo punto di equilibrio calorico, quindi rallentiamo il nostro metabolismo e diminuiamo le nostre esigenze. Quindi da questo punto di vista una dieta breve e drastica complica la situazione. Rispetto a poi alla domanda della nostra ascoltatrice, in sé l'approccio di privilegiare i carboidrati la prima parte della giornata e le proteine la seconda è assolutamente corretto, però bisogna accompagnarlo con una vita molto attiva ed eventualmente con una pratica sportiva durante il pomeriggio. Cioè non basta la dieta, non arriviamo da nessuna parte. Perché il concetto che sta dietro è il fatto che noi questi carboidrati che introduciamo li consumiamo o attraverso la vita di relazione o attraverso l'esercizio fisico. Vorrei leggerle un messaggio che mi sembra molto carino, interessante, quello di Carlo, che dice che sua figlia sotto l'albero gli ha fatto trovare un contapassi e ci chiede come posso usarlo, così diamo anche dei consigli. Abbiamo parlato dell'importanza sicuramente di assumere, no? Di fare una dieta equilibrata, ma abbiamo detto bisogna anche muoversi. Carlo ha questo contapassi, ecco, uno strumento importante per il nostro benessere. È uno strumento che io amo molto, l'ho regalato per esempio a mio padre e ad altre persone a cui voglio bene, proprio perché è uno strumento che ci consente di capire quanta attività fisica di base facciamo tutti i giorni. Diciamo che il consiglio che do ai nostri ascoltatori è magari di comprarlo, di farselo regalare e di valutare se ogni giorno hanno raggiunto il traguardo minimo dei 10.000 passi, che è facile anche da ricordare, perché 10.000 passi, soprattutto per una persona relativamente avanti con l'età e quindi che magari non fa un'attività fisica specifica, sono fondamentali per mantenere un buon tono muscolare e una buona funzionalità del sistema cardiovascolare. Quindi è un bellissimo regalo, lo imposta, lo mette la mattina, lo tiene tutto il giorno, la sera verifica quanti passi ha fatto, lo segna magari anche su una sorta di diario. E non poi meno vede di 10.000. La media, l'obiettivo della media mensile deve essere intorno ai 10.000 passi, sì, al giorno. E questo aiuta, moltissimo, moltissimo, moltissimo. Volete provare, se qualcuno di voi vuole seguire il consiglio? Assolutamente. E poi ci scrive come sta andando, noi siamo contenti e vediamo un pochino. Ecco, e se siete sotto i 10.000 passi, lì sì dovete sentirvi in colpa. Non è difficile camminare un pochettino di più, riorganizzatevi la vita per arrivare a questo traguardo minimo. Andiamo a Belluno, ci aspetta Isidoro, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti. Io volevo fare anche a lei, due domande. Isidoro. Buon anno a tutti, ovviamente. Certo. Io sì, mi piace mangiare, premetto. Bravo. Poco tempo, faccio un'ora di nuoto al sabato e una camminatina la domenica. Però l'organismo si adegua in un certo qual modo, perché vedo che se mi muovo o non mi muovo faccio fatica a perdere peso, o lo perdo dopo un po' di tempo. Comunque, la mia domanda era questa. Queste saune, sto facendo anche delle saune, dei bagni turchi o percorsi per scolare, è solo una questione di relax oppure aiutano a bruciare delle calorie, portano l'organismo nel senso verso i raffreddori, verso le bronchiti? Qual è il parere del medico? Senta, grazie. Isidoro, secondo lei? Secondo me? E io dicevo anche alla collega che cose servono a chi vende questi prodotti, però ci sta bene. Lei le fa e sta bene, e già questa è una buona cosa. Allora, dottor Confalonieri, si sta bene. Bagno turco, io due è cose l'unica diverse. Cosa che mi sono concesso durante queste vacanze, nel senso che aiutano a stare davvero molto meglio questi trattamenti, però per non tutti? Aiutano. Sì, Anche perché ha la pressione bassa? Sì, ed è basta un po' farli svenevole. Con accortezza, basta farli dopo però ecco, aiutano sicuramente a stare meglio, non aiutano a perdere peso. Quindi Isidoro se li fa per perdere peso? No. No. Se li fa come fa, mi sembra, per stare bene? Sì. Assolutamente sì, è già un bel traguardo. E anche per proteggere un po' dal raffreddore? Aiutano, indubbiamente aiutano per proteggere, comunque aumentano quello che è il ricambio, quello soprattutto a livello di liquidi, quindi indubbiamente servono. Non sono una terapia, ma sono un adiuvante rispetto alle patologie da raffreddamento, però non servono a perdere peso. Alessandro ci chiama invece da Milano. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Com'è andata? Si è messo sulla bilancia Alessandro lei? Come, mi scusi? Si è messo sulla bilancia? Sì, sì, decisamente. E io sono in un regime di dieta, diciamo, molto blando, sto attento un po' ai grassi e tutto. Bravo, Alessandro. Ma la mia domanda era più che altro mirata al discorso, che a me piace fare corsa e mi piace fare bicicletta. Adesso la corsa la faccio su tapis roulant. Però il mio problema è che uscendo presto la mattina di casa, tornando a casa la tardi alla sera, ho giusto una mezz'oretta prima dei pasti, del pasto serale, quindi della cena, sì, per poter fare questa attività, se non un'oretta al massimo. Volevo sapere dal dottore o comunque da chi poteva rispondermi se era corretto fare un'attività fisica prima dei pasti. Prima del pasto serale, Alessandro, sì, lei mi dice. Sì. Allora, dottor Confalonieri, una risposta rapida. Io so che lei sarebbe tentato di dire ad Alessandro si alzi prima, mezz'ora prima, perché questo è uno dei suoi cavalli di battaglia. No, e invece no, stavolta diciamo mi stupirà. No, va benissimo, perché bisogna adattarsi alla vita di ciascuno mezz'ora prima dei pasti, magari facendo una piccola merenda alle 5 con un po' di carboidrati, magari fare questa corsa 3 volte a settimana e abbinarla durante il weekend con un'uscita in bicicletta di 1 ora e mezzo, 2, che completa perfettamente quanto fatto durante la settimana. E adesso invece andiamo a Catania. Fa caldo, buongiorno Davide. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione, buon anno a tutti. Grazie. Davide, fa caldo lì a Catania? E c'è un cielo coperto, ovviamente qui c'è il mandolino in fiore, lì c'è la neve, quindi... Vabbè, insomma, almeno siamo uniti. Davide, vada con la sua domanda. Sì, in questo periodo di crisi e recessione dovremmo essere tutti magri perché non dovremmo mangiare, però io ho un problema, ho 27 anni, sono alto 1,85 e peso 87-88 kg. Avevo fatto una piccola dieta che mi aveva fatto perdere un 6-7 kg, poi purtroppo... La granita di mandorle, poi... No, dico, in vista di quello che è stato il Natale ho preso qualche chiletto. Volevo chiedere, purtroppo io lavoro sempre in macchina, quindi viaggio... Il fatto mi si accumula questa pancetta che poi non riesco più a eliminare. Cosa posso fare? Posso aumentare le ore di sport e quant'altro? Perché io già gioco a calcio, però forse questo non è. Volevo fare una domanda. Insomma, grazie Davide. Un consiglio per la pancetta. Sì, direi che non c'è un reale sovrappeso, perché insomma il rapporto peso-altezza è ancora accettabile. Io direi che l'ideale sarebbe evitare di avere fame in questo caso. Lui è molto in giro, magari eviti di fare 2 pasti pesanti a mezzogiorno e alla sera, ma mangi spesso durante il giorno ed eviti gli alcolici. Se lo fa per 2 o 3 mesi, sicuramente quei 2 o 3 chili di sovrappeso presi a Natale scompariranno. E direi che dopo tutti questi buoni propositi, poi un po' di trasgressione, no, poi l'abbiamo, assolutamente è necessaria, e allora in linea con noi, non perché sia uno che trasgredisce, ma insomma in qualche modo ci invita e ci seduce, Alan Bai, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno. Gastronomo, lei trasgredisce. Lei è in forma, si sente in forma o ogni tanto le viene... Mi sento in forma sostanzialmente, sono... dato il mio mestiere sovrappeso, perché peso 88 kg per 1,80 e quindi sono troppi, però mi sento in forma. Io ho appena fatto tutti gli esami del mondo possibili e immaginabili e sono completamente a norma. Magnifico, anche perché lei si fa anche un po' di attività fisica? Sì, cerco di camminare. Ho una fortuna, quella di vivere al 18° piano, e tanto tempo fa il mio allora dietologo mi disse: guarda, se sali e scendi una volta al giorno fino a casa, invece che prendere l'ascensore, hai già risolto il 90% delle cose. Ma io odio i posti dove si fa sport, dove sono le ciclette, eccetera, mi fanno una tristezza inaudita, per cui non ci vado, per come vado in qualunque, non vado in qualunque posto triste. Io cerco di camminare molto. Sì. Cui... Senti, adesso quanti piani fa? 18 piani? No, magari? Adesso ogni tanto quanto salgo, adesso ne sto facendo 6 per perdere, però avevo guadagnato 1 chilo in fondo a Natale, che non è tanto, che l'ho già perso tagliando i grassi, perché poi ingrassare vuol dire tagliare i grassi, uno pochissimi grassi è crudo. Senta, allora ci dà una ricettina, abbiamo proprio un minutino, con che così la copia anche il dottor Confalonieri, che mi ha confessato invece di essere un grande risottaro, cioè lui si vanta molto, adesso una di queste volte lo metteremo alla prova. Vogliamo dare una ricetta un po' stretta di grassi da fare magari nel fine settimana? Ma un risotto non ha nessuna necessità di grassi, basta tostare il riso senza grassi, ma tostare non servono i grassi, nella casseruola, a parte fatto un soffritto, cioè stufato della cipolla o dei porri o dello scalogno con poca acqua per il tempo necessario e poi frullati con il mini pimer. Poi si preparano le varie verdure che vogliono essere messe, ma anche la carne, il pesce, qualunque ingrediente sminuzzato. Quindi dopo aver fatto il risotto si porta a cottura mettendo i vari ingredienti al momento giusto, ovviamente quelli già precotti all'ultimo minuto, quelli che invece chiedono un po' di cottura al momento necessario. Alla fine, per fare l'effetto onda, si toglie un mestolo di riso, si frulla col mini pimer e si rimette dentro. Veramente? Fino a così l'effetto cremoso si ha. Io direi alla fine di condire con un cucchiaio a testa, 10 grammi, o di burro, perché a questo punto essendo con il grasso va benissimo anche il burro, però se no anche di olio. L'olio perfetto per il risotto è l'olio di nocciole o l'olio di noci, che sono anche profumate, alle nocciole e alle noci vanno bene, però rigidamente crudo per mantecare alla fine. Magnifico. In questa maniera il riso, assolutamente senza grassi, sa molto di più degli ingredienti che sono stati usati. Ma pesa? Una verdura e un pesce, però è del pesa molto di meno. Una magia, una raffinatezza. Grazie ad Alambai. Proveremo questo risotto con pochi grassi, ma assolutamente all'onda. Grazie ad Alambai per essere stato con noi, al nostro dottor Confalonieri, che oggi ha imparato qualcosa di più. Appuntamento a domani con Questa casa non è un albergo. Vi aspetto lunedì. Buona giornata da Nicoletta Carbone.